Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. A Roma 37 arresti e decine di perquisizioni in una grande operazione contro la criminalità e la corruzione. Indagati l'ex sindaco Alemanno e politici del PD e di Forza Italia. In manette anche un ex terrorista nero. È peggiorato. Nella serata di ieri il medico di emergency ammalato di Ebola. Ora è in cura con un farmaco sperimentale arrivato dall'estero. Multa dell'Europa all'Italia per le discariche, 42 milioni subito e 40 milioni a semestre finché non ci si adegua. Il ministro attacca, siamo in regola, non pagheremo un euro. Il bimbo ucciso nel Ragusano, indagato il cacciatore che ha scoperto il corpo. Atto dovuto, dicono gli inquirenti. Il procuratore Radio 24 dice dalla popolazione nessun aiuto. Il giorno dopo lo stop al gasdotto South Stream da parte di Putin, crolla in borsa Saipem che perde oltre l'8%. In Ucraina intanto sembra non reggere la tregua. Via libera del governo alla depenalizzazione di alcuni reati lievi, Lega all'attacco. L'Italia diventerà un paradiso dei delinquenti. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, come sempre se volete potete commentare al 349-238-6666 via SMS, scriverci a effettogiorno@radio24.it oppure c'è la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. In apertura in questa edizione la maxi operazione di questa mattina condotta dalla Procura di Roma e che ha portato ad indagare anche una serie di politici e ad effettuare una serie di arresti. Il punto con Monica Ceravolo. Monica, buongiorno. Buongiorno a voi, è un'operazione che sta scuotendo l'intera capitale dal Campidoglio alla sede della Regione Lazio dove sono in corso le perquisizioni, 27 persone sono state arrestate, una decina indagate nell'ambito di questa operazione che ipotizza la presenza di un'organizzazione criminale che da anni gestisce tutti i traffici illeciti della capitale, dagli appalti ai finanziamenti pubblici, coinvolti come avete anticipato politici, malavitosi e imprenditori. Nella lista degli indagati per il pesantissimo reato di associazione per delinquere di stampo mafioso l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, mentre tra gli arrestati ci sono l'ex amministratore delegato dell'ente Euro Riccardo Mancini, l'ex presidente dell'AMA Franco Pranzironi, il capo della polizia provinciale Luca Odevaine e poi i consiglieri regionali Eugenio Patanè del PD e Luca Gramazio di Forza Italia, un terremoto politico istituzionale a capo di questa organizzazione. Secondo la tesi della Procura di Roma accolta dal GIP c'è Massimo Carmi, ex componente dei NAR, ex banda della Magliana, esponente da anni dell'estrema destra romana. È stato arrestato anche lui con l'accusa di associazione mafiosa in una città peraltro in cui fino a poco tempo fa si diceva la mafia non esiste. Tra gli altri reati contestati ci sono anche estorsione, usura, corruzione, turbativa d'asta, false fatturazione, trasferimento fraudolento di beni e riciclaggio. E per ora è tutto. E grazie a Monica Ceravolo e sicuramente vi aggiorneremo su tutta questa vicenda, cercheremo anche di capirne meglio i contorni. Veniamo alle vicende che riguardano il gasdotto South Stream. Dopo le dichiarazioni di ieri di Vladimir Putin sul progetto del gasdotto che dovrebbe arrivare in Europa bypassando l'Ucraina, dichiarazioni nelle quali seppur non definitivamente il leader russo blocca il progetto, si registra un vero e proprio crollo in borsa per il titolo Saipem che in questo momento perde circa l'8%. Sui mercati torneremo più avanti per parlare anche di questo, intanto però ci colleghiamo con Sissi Bellomo del Sole 24 Ore per fare proprio un punto su South Stream. Sissi, sì, buongiorno, e a che punto siamo? Buongiorno, sì, la notizia è stata data dal presidente russo Vladimir Putin mentre era in visita in Turchia ed è arrivata veramente come un fulmine a ciel sereno, tanto che Saipem, che questa mattina è arrivata a perdere l'8% in borsa, afferma di aver appreso della notizia dai media. Saipem sta conducendo dei lavori per conto del gasdotto South Stream, della tratta offshore, di cui è socia anche Eni, ha avuto molto recentemente nel marzo scorso un contratto da 2 miliardi di euro e proprio ieri, ironia della sorte, era partita una nave dalla Bulgaria con delle tubazioni già assemblate pronte per essere posate nei fondali per la costruzione di South Stream. Chiaramente la situazione è molto incerta, i contratti prevedono certamente delle penali in caso di cancellazione del progetto e non è detto che venga cancellato il progetto perché effettivamente Putin ha lasciato aperta la porta alla costruzione di un altro tipo di pipeline non il vecchio South Stream che sarebbe arrivato in tempo, doveva arrivare in Italia, poi invece si sarebbe dovuto fermare in Austria. Adesso vogliono fare un gasdotto, almeno così dicono, che si fermi in Turchia ed eventualmente, se la domanda lo giustificherà, si riconnetta all'Europa balcanica attraverso Grecia, Bulgaria. Grazie intanto a Sisi Bellomo per questi aggiornamenti e per questi chiarimenti, vicenda sulla quale avremo di modo di tornare naturalmente nei prossimi giorni. Intanto, a proposito di Ucraina, perché dalle vicende politiche dell'Ucraina che nasce tutto questo, i separatisti filorussi hanno violato il cessate il fuoco e non rispettano la sovranità e l'integrità territoriale del paese, secondo le parole del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, che ha aperto così i lavori della riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza Atlantica a Bruxelles. Una tregua annunciata, ma non sarebbe la prima ad essere violata. Dopo 7 mesi di combattimenti accaniti sull'aeroporto di Donetsk, tacciono da alcune ore le armi per quelle che le autorità di Kiev indicano come una tregua temporanea concordata con la controparte russa nell'ambito del gruppo di contatto permanente istituito dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. L'aeroporto internazionale del capoluogo del Donbass, ricostruito per gli europei di calcio del 2012 e chiuso dal 26 maggio, è da tempo un cumulo di macerie, ma resta un nodo strategico per impedire che il Donbass intero diventi una nuova Crimea, diventando a tutti gli effetti un satellite di Mosca. Per questo nemmeno il cessate il fuoco del 5 settembre scorso aveva interrotto i combattimenti, anzi Kiev ha denunciato solo 2 giorni fa l'arrivo di forze speciali arrivate direttamente dalla Russia per chiudere la partita dello scalo cittadino. Difficile immaginare insomma che senza un accordo quadro approvato da Mosca le armi tacciano davvero. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È in atto uno scontro tra le due anime di coloro che continuano da settimana a protestare ad Hong Kong contro la decisione del governo cinese di imporre i candidati alle elezioni. 3 fondatori del principale movimento pro-democrazia, Occupy Central, hanno fatto appello ai manifestanti a lasciare i siti occupati, a ritirarsi e a cambiare la natura del movimento, ma un leader studentesco, Joshua Wong, contesta la decisione. La rispettiamo, ma continueremo a restare qui e a fare lo sciopero della fame fin quando il governo non accetterà di parlare con noi. Vedremo come andrà a finire. Intanto passiamo a parlare di Israele, dove si va verso elezioni anticipate. L'incontro di chiarimento tra il primo ministro Netanyahu e il leader centrista e ministro delle finanze Yair Lapid è andato male. Elezioni che, nelle parole del ministro della giustizia Livni, serviranno a rimpiazzare un governo di estremismo, volontà di provocazione e paranoia. Queste le sue parole. Netanyahu, aggiunge Livni, mette parti di Israele l'una contro l'altra. Siamo in diretta con Ugo Tramballi del Sole 24 Ore. Ugo, buongiorno innanzitutto, e da cosa nasce questa crisi di governo? Buongiorno. Nasce da una coalizione formata 18 mesi fa, che era comunque una coalizione impropria, nel senso che era formata, di solito i governi in Israele vengono formati dal centro-sinistra o dal centro-destra, mai dalla sinistra e mai dalla destra. In questo caso invece era un governo di assoluta destra-centro, nel senso che c'erano dei centristi che potevano essere benissimo di centro-sinistra, che partecipavano a un governo di estremisti radicali nazional-religiosi che appunto vogliono ebraicizzare lo Stato di Israele più di quanto effettivamente già non sia, e che non vogliono avere alcun rapporto col processo di pace con i palestinesi. Ma questo politico è solo un elemento della crisi di governo. C'è anche l'elemento economico, cioè come vengono allocate le risorse dello Stato di Israele. Israele è sicuramente un'economia che in confronto a quella europea funziona benissimo, tuttavia hanno dei problemi anche loro, e poi soprattutto c'è un problema di come allocare il denaro, nel senso che Yair Lapid, il ministro delle finanze, che appunto sta provocando questa crisi insieme a Tzipi Livni, credono che sia venuto il momento di concludere, di smettere di continuare a finanziare il processo, il progetto delle colonie ebraiche in territori occupati, ma di investire molto più per la società israeliana dentro lo Stato di Israele. Grazie ad Ugo Tramballi del Sole 24 Ore per questi chiarimenti. Ritorniamo all'Italia per parlare di scariche, perché è arrivata una sentenza della Corte di Giustizia Europea che impone all'Italia appunto il pagamento di una multa. Reagisce il ministro Galletti. Abbiamo in diretta Alessandra Schepisi. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Un conto salato quello che l'Italia deve pagare all'Unione Europea per le sue discariche abusive, per i mancati controlli su rifiuti pericolosi, 40 milioni di euro da versare subito, più altri 42,8 per ogni semestre di ritardo. In pratica alla multa forfettaria si aggiungono 237 mila euro di penalità al giorno da versare fino a quando continuerà lo stato di infrazione. Non è però un fulmine a ciel sereno, sono 7 anni che l'Europa in realtà chiede al nostro paese di adeguarsi alla direttiva comunitaria in materia di smaltimento di rifiuti. Già nel 2007 la Corte del Lussemburgo aveva dichiarato il nostro paese inadempiente, nel 2013 la Commissione era intervenuta ritenendo che il bel paese non avesse ancora adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione appunto alla sentenza del 2007. Nel corso dell'attuale causa invece la Commissione ha denunciato ben 198 discariche non conformi, di cui 14 in violazione anche della direttiva rifiuti pericolosi. Ma il governo italiano non ci sta, il ministro dell'Ambiente avverte: non pagheremo un euro a questa sanzione. Spiega, si riferisce ad una situazione che risale a 7 anni fa. In questo tempo, sostiene Galletti, l'Italia si è messa in regola, rimangono solo 45 discariche abusive ancora da bonificare, per le quali la legge di stabilità del 2014 ha stanziato 60 milioni di euro. Dunque numeri diversi rispetto a quelli dell'Europa e di certo una lunga vicenda destinata a trascinarsi ancora. Da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi per questi aggiornamenti. Nella serata di ieri c'è stato un peggioramento delle condizioni generali del medico di emergency affetto da Ebola e ricoverato allo Spallanzani di Roma. Tuttavia nella nottata e questa mattina il quadro clinico, seppur grave, è tornato sovrapponibile, così dicono i medici, a quello della giornata di ieri. Sta per iniziare intanto un ulteriore trattamento con un farmaco sperimentale appena arrivato dall'estero. La Corte dei Conti dice che il funzionamento del sistema fiscale italiano si è sensibilmente discostato dal modello teorico. E che cosa ha provocato questo? Ha prodotto un'ingiustificata grave sperequazione tra il livello di contribuzione del lavoro dipendente e di pensione e quello derivante dallo svolgimento di attività economiche indipendenti. Dunque questo quello che scrive la Corte dei Conti. A proposito di fisco, vi ricordo che domani c'è la scadenza di Tasi e IMU. A questo il Sole 24 Ore dedicherà uno speciale di 16 pagine e naturalmente domani in effetto giorno torneremo a parlarne. Il governo ha approvato ieri sera un decreto con l'obiettivo di ridurre i procedimenti penali che ha già scatenato le ire della Lega. Sentiamo. Danneggiamento, appropriazione indebita, interruzione di pubblico servizio, ma anche furto semplice, truffa e violenza privata. Sono alcuni dei cosiddetti reati minori, quelli sanzionati cioè con pene detentive non superiori ai 5 anni o soltanto con pene pecuniarie, per i quali il decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei Ministri prevede la non punibilità. Per questo tipo di reati, in qualsiasi fase del processo, potrà scattare l'archiviazione, a patto però che chi li ha commessi non sia un fuorilegge seriale. La non punibilità riguarderà solo i casi in cui il danno o il pericolo procurati siano ritenuti esigui. Prima di emettere la sentenza di proscioglimento, il giudice dovrà anche sentire la parte offesa, resterà poi sempre possibile la richiesta di risarcimento danni. L'obiettivo del provvedimento è naturalmente quello di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali. Il decreto non piace però a Lega Nord e Forza Italia, che annunciano battaglia in Parlamento. Con Renzi l'Italia diventa il paradiso dei delinquenti, attacca il leader del Carroccio Salvini. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto si continua a dibattere di legge elettorale, riforme e Quirinale. Elisabetta Fiorito, a che punto siamo? Buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora, riforme al vaglio della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Dopo la direzione del Partito Democratico di ieri, il governo mostra un'apertura su 4 grandi temi, ma attenzione, accantonato quello controverso della composizione del futuro Senato dei 100. Oggetti di trattativa invece sono l'elezione della Corte Costituzionale e del Capo dello Stato, con un allargamento del plenum e un abbassamento del quorum. Sul procedimento legislativo, l'introduzione di un limite al voto bloccato con data certa per i decreti legge, sul controllo preventivo di legittimità della legge elettorale da parte della Consulta. Una partita, Simone, che si gioca con l'approvazione dell'Italicum ma anche con il Quirinale. A questo proposito, smentiti i contatti con il maestro Riccardo Muti da parte di Palazzo Chigi come futuro inquilino del Colle. In tutto questo il Jobs Act arriva in aula al Senato, una riforma che ieri il premier premier Matteo Renzi ha difeso di nuovo e ha definito di sinistra, ma intanto la direzione del PD, ricordiamo, ha votato per un'accelerazione delle riforme istituzionali e dell'Italicum. La minoranza Dem non ha partecipato al voto, quindi sempre un PD spaccato. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. E ritorniamo alla vicenda del bambino che è stato trovato, che è stato ucciso nel Ragusano. È indagato il cacciatore che ha ritrovato il corpo, è una notizia che la procura ha diffuso, dicendo anche che l'indagine appunto sul cacciatore, sulla persona che ha ritrovato il corpo, è un atto dovuto. Questa mattina il procuratore è intervenuto, Carmelo Petralia è intervenuto a 24 mattino, sentiamo cosa ha detto al nostro Alessandro Milan. Vi sono una, due piste privilegiate che vengono perseguite con una attenzione particolare. Una o due piste, mi perdoni procuratore, una o due piste corrisponde a uno o due persone? Una o no. Due, corrisponde a uno o due persone entro certi limiti, diciamo a uno o due contesti nei quali il delitto può essere maturato. E poi c'è un cerchio più piccolo che è quello ancora vuoto, dentro il quale speriamo di scrivere entro breve tempo il nome. Le chiedo questo infine procuratore, ieri lei in un'intervista ha detto è una comunità piccola quella di Santa Croce Camerina, credo 8.000 abitanti, è possibile che non ci sia, come dire, che sia sfuggito anche, che non ci siano tante testimonianze? E le chiedo a lei, se ne aspettava di più, si aspettava più collaborazione oppure la cittadinanza sta collaborando? Guardi, su questo punto abbiamo lanciato più segnali alla popolazione, ma in vari contesti, devo dire ieri ho visto dei frammenti, non ho avuto il tempo di vederla per intero, anche di un'edizione speciale di Chi l'ha visto, in cui è stato giustamente, opportunamente inserito anche il numero della trasmissione. E devo dire, lo dico così, questo proprio a titolo assolutamente personale, con mio stupore non è arrivata nessuna segnalazione né a Chi l'ha visto né alle nostre forze dell'ordine. È un dato, così, se vogliamo, da un punto di vista sociologico e culturale, mi permetto, o meglio, mi riprometto di studiare e di capire meglio. Francesca Iurato, sindaco di Santa Croce Camerina, il paese dove è avvenuto il fatto, buongiorno e benvenuta. Sì, buongiorno. Ha sentito cosa dice il procuratore? Dalla popolazione nessun aiuto. Che cosa sta succedendo, sindaco? Beh, innanzitutto io mi dispiaccio che di questa attenzione mediatica che è rivolta al mio paese per un accadimento ahimè luttuoso come può essere la morte di un bambino, e quindi chiedo anche alla sensibilità dei giornalisti di non come dire, di avere molta, di dimostrare una maggiore sensibilità e di non legare il nome del paese a un accadimento che è circoscritto. Rinnovo l'invito del procuratore Petralia a riferire magari qualche particolare, qualcosa che può essere legato a gettare qualche nuova luce, a dare uno spunto per risolvere questo caso, distinguendo quelle che sono le competenze proprio degli inquirenti da quelle che invece di chi amministra una comunità che in questo momento è a lutto e quindi sicuramente non è una comunità omertosa. Magari questo accadimento ha sbigottito tutti, perché è qualcosa a cui non siamo abituati ed è circoscritto. Speriamo che si riesca a risalire al colpevole, perché abbiamo due lutti, un bambino la cui vita è stata spezzata e sicuramente un'altra persona che ha questa responsabilità, e quindi in ogni caso è qualcosa di brutto che ha colpito l'intera comunità. Quindi rinnovo l'invito, comunque io sono sempre convinta e ne sono assolutamente certa che non è la nostra una comunità omertosa, magari una cosa di questo, magari non si ritiene che sia appunto non siamo abituati a questi accadimenti, e quindi però ecco, invito nuovamente i cittadini anche in forma anonima a fare pervenire qualcosa, poi magari dice ma forse non c'entra niente, però ecco, intanto che lo dicano, poi magari saranno gli inquirenti a dire va bene, questa è un'informazione ininfluente, stralciamola. Però ecco, rinnovo questo invito, mi associo all'invito del procuratore. Del procuratore, quindi lei dice non è una comunità omertosa, non è che se qualcuno non parla ma perché magari non... perché pensa che possa essere, o perché non effettivamente non è stato visto niente, quindi magari questo potranno magari essere gli inquirenti stessi ad accertarlo, oppure perché magari se c'è qualche piccola cosa, magari qualcuno pensa, ma guarda, magari faccio la figura dello sciocco a riferire cose ininfluenti. Io invito a superare questa sorta di riservo e a farsi avanti, magari in forma anonima, magari lo possono riferire presso la polizia municipale, lo vogliono anche riferire a me, mi metto a disposizione in questo senso, a parte che ci sono i numeri che sono comparsi, credo i titoli che scorrono sotto nei televideo. Certo, è una vicenda inusitata, io invito anche i media a non fare trita carne. Sì, come avviso non lo stiamo... La sfera così privata, così delicata di questa vicenda, io sollecito... la sensibilità dei giornalisti. Guardi, se riascolta, sindaco, se riascolta questa trasmissione, non abbiamo dato nemmeno. Mi ascolti. Finisco. La vostra sensibilità e professionalità. No, dico sensibilità massima. Se ha sentito questa trasmissione, non abbiamo dato particolari truculenti, non abbiamo nemmeno detto il nome del bambino. Vi ringrazio di questo. Senta, sindaco, comunque una comunità sotto shock, immagino. Ma per noi a memoria d'uomo non ricordiamo un accadimento di questo genere, e poi mi consente il sentimento che prevale, quello del lutto, quello di un bambino a cui è stato tolto il futuro. E questo è qualcosa che colpisce la sensibilità di tutti noi concittadini, è qualcosa di... va elaborato anche questo lutto e non è semplice. Grazie Francesca Iurato, sindaco di Santa Croce Camerina, provincia di Ragusa, dove è avvenuto questo brutto fatto di cronaca. E noi passiamo ad un altro brutto fatto di cronaca, perché oggi, penultima udienza nel processo per il naufragio della Costa Concordia, a parlare il comandante, o meglio l'ex comandante Schettino. È nel Teatro Moderno di Grosseto che si svolge l'udienza. Tanta è la gente coinvolta che vuole ascoltare le parole di Francesco Schettino, ex comandante della Costa Concordia, naufragata il 13 gennaio alle 21:45 davanti all'isola del Giglio. 32 i morti, più di 4.000 le persone a bordo. Perché fece quella manovra? Gli chiede il PM Alessandro Leopizzi, e Schettino risponde: considerato anche l'aspetto commerciale, volevo prendere tre piccioni con una fava, cioè fare un piacere a due suoi colleghi e dare un valore aggiunto all'aspetto commerciale della crociera. Sentite. In quel caso sarebbero stati tre piccioni con una fava, ma un senso commerciale nel senso di pubblicitario che fanno le foto dalla terra verso la nave. L'avvicinamento all'isola favorisce dunque l'aspetto commerciale, secondo Schettino. Il comandante infatti racconterà i tour commerciali nella plancia di comando, rispondendo al PM che gli contesta che per regolamento in plancia avrebbero dovuto esserci soltanto gli ufficiali. Schettino risponde: io dicevo che non dovevano essere più di 12 alla volta, ma me ne portavano anche 20, 30 a 70 euro a tour. A un'altra domanda, e cioè se Costa fu informata del mutamento di rotta, Schettino risponde di no, non lo prevedeva la norma. In precedenza, dirà Schettino, un paio di volte ho fatto un passaggio ravvicinato al Giglio. Non era previsto neanche dalle regole interne di Costa, quindi non avvisai nessuno. Senta, era la prima volta che faceva una navigazione sotto costa, inchino, passaggio ravvicinato, chiamiamolo come vuole, all'isola del Giglio? Ci sono passato un paio di volte. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E torniamo a parlare in questa seconda parte della trasmissione della nostra notizia di apertura, gli arresti, le decine di perquisizioni, questa grande operazione contro la criminalità che sta letteralmente scuotendo la capitale, la politica della capitale, e naturalmente ha messo le mani in quella che è la criminalità di Roma. E torniamo a collegarci con Monica Ceravolo innanzitutto per qualche aggiornamento e poi vedremo di comporre il quadro. Monica, eccoci di nuovo, buongiorno. Buongiorno anche da parte mia. Gli aggiornamenti, diciamo, emergono alcuni dettagli su Massimo Carminati, l'uomo che sarebbe a capo di questa organizzazione criminale, è stato fermato per sospetta detenzione di armi, un fermo che poi invece il GIP ha commutato in arresto. Poco comunque in questi momenti emerge, perché alle 15.30 è prevista una conferenza stampa in procura e lì ci sarà il procuratore capo Giuseppe Pignatone, dal quale ci aspettiamo ulteriori notizie. Naturalmente ulteriori informazioni e ulteriori notizie. Sono vicende, questa è della criminalità romana e dei legami col terrorismo nero, con l'ex terrorismo nero e poi la banda della Magliana, che continuano a comporsi in questi anni, in questi ultimi mesi, Monica, no? A partire dalla vicenda Mokbel, tanto per fare un esempio. Esatto, praticamente sono voci di corridoio che poi qualcuno dice sono sempre le più vere, le quali dicono che c'è un filo che non si è mai spezzato, che parte dalla banda della Magliana, arriva fino alla criminalità odierna. Ebbene, questa inchiesta di oggi dimostrerebbe che è proprio così, perché Carminati è uno e nasce con la banda della Magliana e si, per così dire, sviluppa con l'estremismo di destra, è un nome che non è mai del tutto scomparso dalle inchieste, anche se lui praticamente sempre ne è uscito pulito, tanto che era un uomo libero. Però c'erano molti sospetti, inchieste giornalistiche, libri nei quali si accennava alla sua presunta attività di criminale. Ebbene, appunto, questa inchiesta rompe un diktat, che è quello che a Roma la mafia non esiste. Fino a stamattina si poteva dire: a Roma la mafia non esiste, non sono stati celebrati mai processi per mafia. Adesso è uno che è stato aperto recentemente, che vede coinvolto il clan di Ostia, è il primo che andrà a sentenza di primo grado a fine di quest'anno, e nessuno a Roma è mai stato condannato per mafia. Ebbene, questa inchiesta, questa operazione di oggi ci fa capire che invece non, le cose non stanno esattamente così. Monica, a proposito di tutto questo, quali sono i legami di questa criminalità, come si diceva, collegata alla banda della Magliana, collegata anche al terrorismo nero tramite per esempio la figura di Carminati, ma anche altre figure, con la criminalità organizzata? Penso in particolare a quella calabrese, perché una serie di inchieste hanno coinvolto e hanno intrecciato le due questioni. Evidentemente ci sono dei legami, ci sono, come anticipato, nomi che ritornano, e poi ci sono dei fatti, delle inchieste giudiziarie. Le inchieste dicono che a Roma c'è la criminalità calabrese, che mette le mani sulla droga, che si occupa della distribuzione di droga, c'è la camorra che gestisce gli esercizi commerciali a carattere soprattutto, diciamo, alimentare, e poi ricordiamoci alcuni famosi locali del centro di Roma, alcuni importanti pezzi di Via Veneto. Le inchieste giudiziarie hanno dimostrato che erano in mano alla camorra. E poi c'è la mafia che gestisce il mercato ortofrutticolo di Fondi, per esempio. Ebbene, la domanda era: come fanno tutte queste organizzazioni a convivere a Roma? La risposta potrebbe essere l'inchiesta di oggi, cioè che c'è una cupola al di sopra di tutto che in qualche modo gestisce le attività criminali che ci sono a Roma, che vanno dall'usura alla richiesta di pizzo agli appalti truccati alle tangenti, fino, diciamo, alle infiltrazioni poi nelle istituzioni. Infatti, avete anticipato, ci sono anche personaggi politici coinvolti, non ultimo Alemanno, ecco. Grazie a Monica Monica Ceravolo anche per questi aggiornamenti e questi chiarimenti. A Tina che ci scrive, a sinistra ci si riempie la bocca con il nome di Alemanno, che sicuramente non ha nulla a che vedere con questo caso. Tina, Alemanno è indagato per associazione mafiosa esattamente in questa inchiesta, insieme ad altri indagati, non sappiamo ancora esattamente per quali reati, che stanno anche nel centro-sinistra. Mirko Coratti, il presidente del Consiglio Comunale di Roma, tanto per fare un esempio, e poi c'è anche un consigliere regionale, oltre che un consigliere regionale di Forza Italia. Andiamo quasi a chiudere e ci colleghiamo con Marco Dugato, che è ricercatore di Transcrime, che è il centro interuniversitario di ricerca sulla criminalità dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell'Università degli Studi di Trento. Dugato, benvenuto e buongiorno. Buongiorno a voi. L'abbiamo chiamata per parlare di questo provvedimento preso oggi preso ieri sera in realtà dall'esecutivo, un decreto legislativo varato ieri che prevede la non punibilità dei reati più lievi, ossia quelli per i quali si prevede oggi una pena detentiva non superiore nel massimo ai 5 anni, una pena pecuniaria sola o congiunta alla precedente quando l'offesa è di particolare tenuità. La Lega e una parte del centrodestra si indignano, dicono diventa un paese paradiso per i delinquenti. Io vorrei capire da lei se ci sono reati che possiamo considerare di pericolosità sociale all'interno di questi reati che l'esecutivo intende definire come non più punibili o facilmente archiviabili da parte dei magistrati. Allora, guardi, il problema fondamentale è che se ragioniamo proprio da un punto di vista sostanziale, la maggior parte dei reati che vengono considerati all'interno di questo provvedimento già al momento attuale in qualche maniera non vengono poi puniti, nel senso che proprio per le lungaggini dei processi e di quelli che sono appunto i problemi della prescrizione e via dicendo, rimangono quasi sempre impuniti, nel senso, ma vanno a intasare quello che poi è il sistema penale. Quindi diciamo che da un certo punto di vista questa riforma va in un'ottica, se vogliamo, di miglioramento di quella che è l'efficienza del sistema penale. Sicuramente ci sono anche però delle cose che potrebbero essere migliorate. È vero quello che dice lei, che non vengono puniti, però a processo ci vanno. Esattamente. E questo intendo, questo è comunque già di suo un deterrente o no? O magari mi sbaglio, No, no, esattamente, ma proprio questo era il punto su cui volevo arrivare, nel senso che sicuramente è necessario fare qualcosa per snellire il sistema penale. Quello che probabilmente era sensato fare da un certo punto di vista era prevedere per esempio dei percorsi paralleli per cui questo tipo di procedimenti potessero essere in qualche maniera gestiti in maniera molto più veloce e non seguendo i canali ordinari, quindi non andando ad intasare invece i percorsi che dovrebbero invece seguire da quei reati cosiddetti straordinari, che quindi sono di maggiore gravità. All'interno di questo provvedimento, se non sbaglio, adesso andiamo a recuperare esattamente quali sono i reati, però c'è anche il furto semplice, il danneggiamento, la truffa, alcuni reati contro il patrimonio. Dugato, va bene snellire, però insomma, immagino che qualche fronte di preoccupazione per i cittadini da questo punto di vista arrivi. Ma sicuramente sì, ripeto, non tanto dal punto di vista sostanziale quanto proprio dal messaggio che si vuole dare in qualche maniera. Prima di tutto perché è stata fatta passare un po' come se fosse per venire incontro a quei reati che avvengono per esigenza, ma nella realtà quando abbiamo il problema di danneggiamenti o di violenza privata o di minacce, lì, come dire, l'elemento dell'esigenza dal punto di vista della crisi economica viene un po' meno come motivazione. Dall'altra parte è anche una questione appunto di messaggio che si dà, nel senso che quando io arrivo a sostanzialmente archiviare di per sé, quindi non arrivare a processo per determinati tipi di reato, sembra quasi che io stia dicendo ok, poi in qualche maniera cioè una depenalizzazione di fatto, una depenalizzazione di fatto. Esatto, Dugato. Invece quello che secondo me poteva essere un percorso più coerente, come dicevo, era quello di dire prevediamo un percorso parallelo più veloce, più snello, che comunque dà il senso che lo Stato interviene a danno di, come dire, nei confronti di chi commette questo tipo di azioni, ma seguendo un iter, una procedura più snella, più veloce. La ringrazio, grazie Dugato per essere stato con noi e per averci aiutato a capire qualcosa di più, ricercatore di Transcrime, che è un centro universitario che tiene insieme l'Università Cattolica di Milano e l'Università degli Studi di Trento. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America.